edizione. Le 6 e 16 minuti. Notizia di poco fa, le autorità del Kerala hanno deciso il trasferimento dei Marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone dal carcere di Trivandrum ad una struttura di coci di gradimento italiano. Lo scrive oggi la stampa indiana, anche se non ci sono al momento conferme ufficiali. La viabilità, ci ritroviamo subito dopo per un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Prima edizione. Le 6, 18 minuti e 9 secondi. Veniamo dunque a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, con alcune aperture differenziate, nel senso che in molti sembrano scegliere il tema economico e il tema non solo del vertice europeo, ma chiaramente anche dell'andamento delle borse di ieri. Lo fa ovviamente il Sole 24 Ore, lo fa il Corriere della Sera, con le borse che non credono all'Europa. Lo fa anche La Repubblica, il cui titolo è ancora più forte: Grecia quasi fuori, crollano le borse. Mentre invece altri quotidiani scelgono la politica, lo fanno molti quotidiani più politici, appunto, come Libero, Il Giornale e L'Unità, che scelgono come apertura il tema dei problemi all'interno del centrodestra, l'eventuale ritorno del Cavaliere, un arrivo presunto tale di Montezemolo, e poi c'è anche qualcosa di diverso, in particolare dal Secolo XIX, dal Fatto Quotidiano. Ci arriveremo tra un attimo, però partiamo dall'argomento di giornata, quello che scelgono i principali quotidiani, che è proprio quello economico. Il titolo del Sole 24 Ore è: cadono le borse, l'Europa rinvia, scontro Francia-Germania sugli eurobond, Monti e Hollande che dicono crescita prioritaria. Il commento in prima pagina, in realtà sono due, uno dedicato alle banche di Marco Nado, le banche schiacciate dalle gelosie nazionali, e l'altro è i leader divisi, l'emergenza crescita ignorata dalla Merkel, affirma Adriana Cerretelli, dove, tanto per citare un dato che può essere interessante, che scrive Adriana Cerretelli, che insomma, raccontando questo vertice, commentando questo vertice, dice: si è riunito il primo vertice europeo sulla crescita, grande emergenza europea finora ignorata, è il primo summit del genere dopo ben 24 dedicati alla crisi dell'euro dall'autunno del 2008. 24, attenzione, 24 occasioni perse, dice Cerretelli sul Sole 24 Ore. Siamo di spalla appunto a questa apertura dedicata alle borse. C'è invece, ci sono le parole del neopresidente di Confindustria Giorgio Squinzi, ieri eletto ufficialmente con il 94% dei consensi dall'assemblea privata, oggi tra l'altro invece assemblea pubblica. Squinzi: la riforma della pubblica amministrazione è la madre di tutte le riforme, questo è il titolo del Sole 24 Ore. Vogliamo che Confindustria, ha detto, sia il propulsore della crescita, è indicato appunto nella riforma della pubblica amministrazione la madre di tutte le riforme. Vogliamo segnalarvi anche dal Sole 24 Ore Paola Bottelli, che intervista Giorgio Armani su un po' tutti i temi, ma anche sulla sua azienda naturalmente, e dice: il titolo è con 643 milioni in cassa, sono solido e non vendo. E ancora: il futuro dell'Italia preoccupa tutti, ho fiducia nelle azioni del governo Monti, nella capacità degli italiani di agire e reinventarsi, ma bisogna incentivare i giovani a esprimere la propria libera iniziativa. Ancora dal Sole 24 Ore, altra questione interessante è quella che riguarda le pensioni. Pensione meno 3% sotto i 65 anni, premiati posticipi, partendo a 70 anni la rendita sale fino al 16%. E poi il famoso sportello del Sole 24 Ore, questa iniziativa, le tasse a rate in tempi di crisi, quindi trovate parecchi dettagli in queste quattro pagine dedicate e molte risposte alle domande. Il Corriere della Sera apre appunto sulle borse, come si diceva, che non credono all'Europa, e un più che un commento, un'analisi in prima pagina di Federico Fubini, che spiega perché Perché Berlino paga zero, che vuol dire che alcuni bund tedeschi appunto pagano zero, lo 0,07% per indebitarsi a 2 anni, i famosi bund tedeschi appunto. Questa è l'analisi di Fubini, ma in realtà l'apertura vera e propria, il titolo che trovate in alto, è la foto della nave della legalità con le due enormi foto che erano appese in una sorta di striscione di Falcone e di Borsellino, e Napolitano che a Palermo dice la violenza stragista può ancora tornare. Felice Cavallaro scrive un pezzo, quelle navi cariche di ragazzi e speranza. Titolo anche su Berlusconi, la crisi del PDL, non so se resterò in campo. E poi il caso della discarica dei rifiuti prevista a poche centinaia di metri dal sito, si parla di Villa Adriana, vedremo di approfondirlo all'interno di Prima Edizione, se il governo si perde a Villa Adriana. Questo il quadro per quanto riguarda il Corriere della Sera. Come si diceva, più forte il titolo di Repubblica per quanto riguarda la Grecia, quasi fuori, crollano le borse, scrive la Repubblica. Anche qua titoli su Napolitano e su Berlusconi. A proposito della questione di Villa Adriana, appunto della discarica che si sta pensando di fare vicino a Villa Adriana, c'è il ministro Ornaghi che viene intervistato da Repubblica e dice: fermiamo la discarica di Villa Adriana o mi dimetto. Addirittura il ministro dei beni culturali dice: non sono Ponzio Pilato. Questo per quanto riguarda la Repubblica. Verrei alla Stampa, anche qua l'effetto a Grecia che affonda i mercati e Milano che perde il 3,6%, ma l'apertura vera è dedicata a Napolitano. Viene riportato il testo dell'intervento: la mia fiducia nelle nuove generazioni. E è un commento di Francesco Lalicato, un faro sui pericoli in agguato. Questo per quanto riguarda la Stampa, che anche altre due questioni interessanti, ossia un titolo tra i pochi che lo fa, il pasticciaccio di Facebook, il flop della quotazione, le inchieste e la class action. E poi due temi di taglio, per così dire. Per l'Alfa arriva l'erede del duetto, la nuova Spider sarà realizzata insieme alla casa giapponese Mazda a partire dal 2015, notizie che abbiamo dato ieri nei GR della mattina. E poi a Torino il Luna Park dei Coldplay, stasera l'unica tappa italiana della band Mito all'Olimpico, 40.000 fan. Altre due o tre cose che vi vogliamo leggere, come si diceva, i titoli dell'Unità, di Libero e del Giornale, che riguardano le questioni interne al PDL. La destra cambia cavaliere, il titolo dell'Unità, Montezemolo riannuncia la discesa in campo e cerca di approfittare dello stato confusionale del PDL. Berlusconi esclude di candidarsi, ora è mister Ferrari a usare i suoi slogan su meno tasse e meno Stato. Questo per quanto riguarda l'Unità. E l'analisi di Michele Prospero, il problema è che Silvio c'è ancora. Libero, PDL nel pallone, non sanno neppure dimettersi. Offeso per le nostre critiche, il coordinatore Bondi fa finta di andarsene ma viene prontamente fermato. Poi sbrocca, questo è testuale nel sommario di Libero, e accusa Libero per la sconfitta elettorale. Non hanno capito nulla. Il Libero segnala una foto di chi? In cui la senatrice del PD Anna Finocchiaro fa spesa con la scorta. La Finocchiaro usa gli uomini della scorta come colf. E questo titolo c'è anche sul Giornale, questa foto c'è anche sul Giornale. Giornale che apre anche questo sul PDL. PDL apri gli occhi, lo Stato Maggiore in subbuglio non vede la soluzione più semplice, ripartire da Berlusconi. L'apertura del Secolo XIX è interessante, ve la segnaliamo. I partiti negano i soldi a Grillo, niente rimborsi a chi non ha lo statuto, allentati i controlli sui bilanci. Spunta la norma appunto per fare lo sgambetto a Grillo, è un emendamento dell'UDC che prevede che il partito destinatario dei fondi sia dotato di uno statuto conformato a principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti. Una regola fatta apposta per mettere in difficoltà il Movimento 5 Stelle, che oggi ha un non statuto. E infine il Fatto Quotidiano apre sulla vicenda di Villa Adriana. Villa Adriana finisce nella discarica. Il governo, il prefetto di Roma e la regione della Polverini danno il via libera al sito per la raccolta rifiuti a Corcolla, a due passi dal parco archeologico. Ornaghi minaccia le dimissioni, ma non le dà. Questo il quadro. Naturalmente un titolo su questo lo trovate anche sul Messaggero. Rifiuti, il sia Corcolle spacca il governo, sostegno del premier al prefetto sulla discarica e Ornaghi che si dice pronto a lasciare. Adesso ci prendiamo una breve pausa, poi ci sarà il giornale radio e quindi ci ritroviamo tra un attimo. Prima edizione. Le 6 e 37 minuti, Italia in controluce. Italia in controluce. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. Continuiamo il nostro viaggio nel ricordo delle stragi di mafia, nella settimana del 20° anniversario della morte del giudice Falcone. Il 19 luglio del 92, la strage di Via D'Amelio, in cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino. Ce ne parla Daniele Biacchessi. L'esplosione di Capaci deflagra fino a Montecitorio. Il 25 maggio viene eletto il nuovo Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, 73 anni, democristiano. Lo Stato e la politica sono sotto accusa per la morte di 5 funzionari dello Stato e l'Associazione Nazionale Magistrati denuncia. Il potere politico è fondato sul consenso criminale. Ci saranno manifestazioni ad un mese dalla strage di Capaci. 100.000 persone arrivano a Palermo da tutta Italia per sfilare contro la mafia. Sono in gran parte giovanissimi. Il governo Andreotti approva norme antimafia di emergenza. Carceri speciali per i boss, indagini segrete di polizia e premi per i pentiti. Il ministro della giustizia Claudio Martelli propone Paolo Borsellino come super procuratore antimafia. Intanto il pentito Antonino Calderone avverte: ci saranno altri delitti eccellenti. Paolo Borsellino lo ripeteva come fosse un'ossessione. Il mio problema è il tempo. Lo diceva in quei 57 giorni dell'estate del 92. Perché morto Giovanni Falcone, Paolo Borsellino sapeva di essere per Cosa Nostra il primo della lista. Il 19 luglio del 92 a Palermo è una calda domenica. Le indagini sulla morte di Giovanni Falcone non competono a Paolo Borsellino, ma alle 7 del mattino il procuratore Gianmanco gli comunica che finalmente potrà occuparsi anche delle indagini su Palermo e provincia, come lui da tempo richiedeva. E allora Paolo Borsellino pranza in famiglia nella casa di Villa Grazia di Carini, poi nel tardo pomeriggio decide di far visita all'anziana madre. Tra il mare e la casa della signora Maria a Palermo c'è un'autostrada. E quel pomeriggio, proprio quel pomeriggio, le tre croma blindate su cui viaggiano il giudice e la sua scorta transitano accanto allo svincolo di Capaci, dove una striscia di vernice rosso sangue sul guardrail già ricorda la strage del 23 maggio. Arrivati a Palermo raggiungono via Mariano D'Amelio. È una strada chiusa, ostruita al fondo da un muro di tufo che recinta un cantiere edile. Paolo Borsellino fa giusto in tempo a citofonare al numero civico 21 quando alle sue spalle esplode una Fiat 126 carica di tritolo. Muore sul colpo e con lui tutti i 6 uomini della scorta. Così si moriva a Palermo, soli, senza la protezione morale dello Stato che si serve, senza neanche il tempo di vivere. Senza un saluto, senza avere chiuso l'ultima pagina di un'inchiesta. Soli e minacciati, lavorando e basta, soli, semplicemente soli. A 20 anni di distanza, dalle stragi di Capaci di Via D'Amelio, emerge quello che in molti nel 1992 già sospettano. Non può esserci soltanto la mafia dietro quegli eccidi. Le indagini e i processi istruiti da Falcone e Borsellino stavano scoperchiando l'intreccio ormai confermato tra Stato e mafia. tra uomini delle istituzioni e potere affaristico e criminale. Qualcosa che nel 1992 si poteva soltanto sussurrare, ma che oggi si può gridare a gran voce. E Italia in controluce torna oggi alle 13.30 con una versione più lunga di questo racconto. Le 6.41 minuti e 34 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Dunque ritorniamo a fare il punto sul vertice europeo di questa notte con la nostra Cristina Carpinelli. Cristina, di nuovo buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Dicevamo che i due temi che sono stati portati in questo vertice informale sono stati Eurobond e Grecia, un vertice informale che si è concluso alle 2 di questa notte. Per quanto riguarda gli Eurobond, a premere su questo tema è stato François Hollande, presidente francese al suo debutto a Bruxelles, che li ha fortemente promossi per finanziare progetti industriali infrastrutturali, che era poi anche il tema che aveva portato in campagna elettorale, un tema che si è andato a scontrare con Angela Merkel e quindi con la Germania, che ha più volte ribadito il suo no. Gli Eurobond, secondo la cancelliera tedesca, non sono una soluzione per rilanciare la crescita, posizione sulla quale ha trovato la Merkel l'appoggio del presidente svedese. Per Berlino gli Eurobond, in quanto condivisione di responsabilità di ciascun membro dell'Eurozona dei debiti di altri stati, sarebbero la medicina sbagliata, questo quanto dice Angela Merkel. Per Mario Monti invece l'idea di emettere obbligazioni a livello europeo è tra le più importanti e forti di questo incontro, che, lo ricordiamo, è il preparatorio del summit del Consiglio del 28 e 29 giugno. Dunque Hollande e Monti molto vicini, quasi allineati, e con loro anche Barroso. Questa è forse la notizia più significativa di questo incontro informale. Il fatto che il tema di Eurobond sia sul tavolo e abbia consensi anche dai paesi che non sono nella zona euro, come la Gran Bretagna, significa che la cosa si muove. Credo che questo determinerà aspettative nei mercati. Queste alcune delle frasi che sono state pronunciate a fine dell'incontro. In questo caso queste parole le ha dette il nostro premier Mario Monti. Altra proposta di Hollande è quella di mobilitare gli 80 miliardi di fondi strutturali non utilizzati e con questi soldi di fatto potenziare appunto gli investimenti e le infrastrutture. E l'altro tema è potenziare la banca europea, quindi in qualche modo far diventare il ruolo della BCE molto simile a quello della Fed per favorire la crescita. Questa è una proposta che è stata sollevata dalla Spagna. L'ultimo tema, Simone, poi ti ridò la linea, è relativo alla Grecia. Il nodo era capire se restava in zona euro o no, anche perché poco prima dell'incontro erano trapelate indiscrezioni secondo cui dall'Eurogruppo sarebbero state date indicazioni agli Stati membri di preparare piani nazionali per esaminare un'eventuale uscita di Atene dall'euro. Abbiamo discusso la situazione della Grecia, vogliamo che resti nell'euro, questo quanto ha detto Mario Monti leggendo una comunicazione messa a punto dal vertice europeo. E per ora è tutto. Grazie alla nostra Cristina Carpinelli. Noi adesso cambiamo argomento e abbiamo parlato molto di mafia in questi giorni, stiamo continuando a parlarne come sapete, ma oggi è un'altra giornata importante perché si svolgono i funerali di Stato per Placido Rizzotto, che sindacalista socialista fu ucciso il 10 marzo del 1948 all'età di 34 anni da un gruppo di mafiosi guidato da Luciano Liggio. È stato riconosciuto ufficialmente grazie alla prova del DNA solo 64 anni dopo, il 9 marzo di quest'anno. Il nostro Vincenzo Miglietta ha intervistato il nipote di Placido Rizzotto, appunto, del quale si svolgono oggi i funerali di Stato, la presenza di Napolitano, che si chiama come lui, un omonimo, Placido Rizzotto. Un segnale forte quello che quest'anno sta avvenendo con queste ricorrenze in maniera così massiccia, con l'intervento del Presidente del Consiglio, con l'intervento del Presidente della Repubblica, con la celebrazione successiva lo stesso giorno, il domani, dei funerali di Stato di Placido Rizzotto. Per me è una cosa importante perché questa Sicilia ha tanta voglia di riscatto e finalmente abbiamo uno Stato che sta cercando di fare qualcosa di serio contrasto con la mafia. secondo lei, al di là dell'anniversario e delle celebrazioni, effettivamente sta cambiando qualcosa o la storia si ripete? Quindi prima nel 48 Rizzotto, poi... La storia tende a ripetersi, quello che sta cambiando è la reazione delle persone, delle istituzioni, proprio della gente, del sentire comune. Mentre nel 48 la gente viveva queste cose con indifferenza, chi con incredulità o chi addirittura con timore, adesso che si è presa veramente coscienza della mafia e dei danni che fa sia nel nostro tessuto sociale che economico, la reazione che c'è è cambiata, sia a livello di cittadini, anche sia a livello di istituzioni. Attenzione, non tutte le istituzioni, ma ci sono veramente oggi grande parte di istituzioni che stanno cercando di fare qualcosa. Purtroppo assistiamo ancora a cose poco chiare, a eventi che cercano di far sì che questi eventi si ripetano senza poter individuare i veri mandanti e i veri scopi. E questa era l'intervista del nostro Vincenzo Miglietta a Placido Rizzotto, nipote di Placido Rizzotto, appunto. La viabilità, e subito dopo parliamo di Villa Adriana. Prima edizione. E dunque parliamo della vicenda di Villa Adriana, all'ombra di una discarica, quello che sembra essere il primo vero scontro all'interno dell'esecutivo. Katia Caramelli, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Cominciamo con la lettera durissima, molto dura, con cui ieri il presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, Andrea Carandini, si è dimesso. Gentile signor ministro, scrive Carandini al ministro Ornaghi, la mancanza di una politica del governo verso la cultura già mi aveva sorpreso e deluso, ma esistono per ciascuno di noi dei limiti di tolleranza civica e personale. I limiti, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, a cui si riferisce appunto Carandini, è il via libera che il governo ha dato al disegno di portare in una ex cava, a meno di un chilometro in linea d'aria dal sito archeologico di Villa Adriana, la nuova discarica che poi dovrà raccogliere i rifiuti solidi urbani di Roma, che Malagrotta evidentemente non contiene più. Contrarissimo, si dice, il ministro Lorenzo Ornaghi, che minaccia eventualmente dimissioni, con lui anche il titolare dell'ambiente Corrado Clini, secondo il quale ci sono i margini e gli strumenti ancora per impedire la discarica. Un'operazione che peraltro rischia anche di avere un effetto devastante sul piano internazionale. Ricordiamo che ci potrebbe essere la revoca del bollino UNESCO. Dal 1999 infatti Villa Adriana è stata dichiarata patrimonio dell'umanità. L'avvertimento dell'UNESCO è già arrivato e il 24 giugno a San Pietroburgo si deciderà se mantenere questo titolo, quindi staremo a vedere. Grazie Katia Caramelli, grazie anche a Peter Bescapè in regia, Diego Rovelli in redazione, grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia ci risentiamo tra poco con il Giornale Radio.